Se potessi vivere nelle favole, avrei comprato con degli scudi d'oro e avrei preso un cavallo con le ali d'argento. Sarei andato a cercare quel mago per riempirti di vestiti d'oro e d'argento. Se sembri un po' robotica, in fondo ti ho voluto io così. Robotica, robotica, in fondo ti ho voluto per me, con un cuore di donna che non c'è. Questa favola fantastica sarebbero racchiusi i tuoi desideri, paesaggi fantastici la fata farebbe per te. E avresti gli opportuni dispositivi per interagire con l'ambiente circostante. Desiderio dell'uomo che possa così comandare, poco faticoso ma gioioso, fantastico. Robotica, robotica, in fondo ti ho voluto per me, per suonare uno strumento per me. Per me per me.